Sì, in un momento in cui bisogna decidere degli obiettivi di riduzione per il futuro, per il dopo 2012, l'Italia fa un passo indietro, uscendo dalla linea europea, che è quella di stabilire degli impegni vincolanti che proseguono quanto di buono è stato fatto dal protocollo di Kyoto. Il governo si accorda su un obbligo di riduzione che appunto non è legalmente vincolante, quindi di conseguenza le imprese che vorrebbero investire nello sviluppo sostenibile si trovano in una situazione di incertezza. Si parla spesso appunto della competitività, no? delle imprese, ma in realtà la riduzione delle emissioni di CO2 va mano nella mano con l'efficienza energetica, con una riduzione dei consumi di combustibili fossili, che al momento, come abbiamo visto, il prezzo del petrolio è in continua crescita, e quindi dando delle certezze su quali sono gli obblighi, quali sono gli impegni per ridurre le emissioni, si dà una certezza anche alle imprese. Con una situazione volontaria le imprese poi non sono neanche stimolate, diciamo, a sviluppare questi sistemi di efficienza energetica, di investire in energie rinnovabili, e questo causerebbe una perdita di competitività proprio delle imprese italiane rispetto, per esempio, alle altre imprese europee che già da qualche anno si muovono in questa direzione. Nella mattina di oggi inizia il segmento cosiddetto ministeriale, in cui interverranno tutti i ministri. Tra l'altro è previsto anche un intervento del ministro Matteoli domani. Al momento la sessione è appena iniziata e il presidente argentino Kirchner sta portando il saluto, insomma, dell'Argentina alla conferenza. Nel pomeriggio si svolgeranno una serie di tavole rotonde con i rappresentanti dei governi presenti qui a Buenos Aires. Attendiamo con interesse le parole del ministro domani nel suo intervento in plenaria.